Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a luglio del 1798. Pio VI via da Roma, i francesi in città, polemiche per i saccheggi di opere d'arte. La marina inglese guidata da Nelson sconfigge Bonaparte in Egitto. Terremoto a Siena ha lesionato il 60% degli edifici. Il suo nome era sinonimo di playboy, muore in Boemia Giacomo Casanova. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura la cronaca da Roma. Bonaparte in questi mesi lontano dall'Italia, inviato in Egitto. La lontananza del generale però non ha arrestato l'avanzata francese. L'11 febbraio le truppe sono entrate nella capitale dello Stato Pontificio. Il Papa è stato mandato via e proclamata la Repubblica Romana. Ma sull'occupazione d'Italia, salutata in realtà favorevolmente da alcuni patrioti, si addensano polemiche. Sono quelle sui saccheggi di opere d'arte. La destinazione preferita è spesso la collezione del Musée des Monuments Français al Louvre, ma quello che conta per noi italiani è che queste opere non sono più nel bel paese. Sono numerosi capolavori d'arte che le armate napoleoniche hanno requisito in diverse aree dell'Italia per inviarli in Francia in applicazione di quella che qualcuno non ha esitato a definire la dottrina francese, con tanto di sofistica giustificazione morale secondo cui, siccome le opere d'arte sono il patrimonio della libertà, esse devono essere depositate nella patria della libertà e della santa eguaglianza. In occasione della prima campagna dei Paesi Bassi del 1795, la Francia aveva già incamerato oltre 200 capolavori fiamminghi. Con la successiva campagna d'Italia del 796, altre 110 opere sono state requisite in forza dell'armistizio di Cherasco. Quest'anno il boccone più succulento è a Venezia. Il leone di bronzo di Piazza San Marco e i quattro cavalli che ornavano la facciata della Basilica saranno a breve trasferiti a Parigi. Paolo Piacenza, Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E le spoliazioni sono aumentate nell'ultimo periodo, proprio in coincidenza con l'inizio della campagna d'Egitto. Come vi dicevamo nei titoli, Bonaparte sta cogliendo i primi insuccessi. Ad Aboukir, in Egitto appunto, la flotta francese è stata affondata da quella inglese tra il 1 e il 2 di agosto. Alla guida dei britannici c'era l'ammiraglio Horatio Nelson. La cronaca italiana: c'è stato un forte terremoto che ha colpito la città di Siena. Le prime informazioni parlano di danni molto pesanti che avrebbero riguardato il 60% degli edifici. Ancora incerto il numero delle vittime. Una vita lunga e di certo non noiosa che si è conclusa a Dux in Boemia il 4 giugno di questo 1798. È quella di Giacomo Casanova, avventuriero, scrittore, ma soprattutto noto per essere uno dei maggiori playboy della nostra epoca. Cittadino veneziano, frequentatore di molte delle corti d'Europa, pare che abbia amato almeno 200 donne, così in una delle sue ultime interviste. L'inverno è molto lungo in Boemia. Già da parecchi anni vivo a Dux, nel castello di Waldenstein. Sono bibliotecario del signor Conte, un incarico importante che si addice alla mia indole di studioso. Anche se non è proprio l'indole di studioso che ricorderanno i posteri. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e Paolo Piacenza. Potete riascoltare come sempre il Gazzettino sul nostro sito, ne potete scaricare una versione in PDF. Se volete scriverci, armatevi di penna, calamaio e ceralacca e scrivete appunto a gazzettino@radio24.it.